sull'italiana, dirò che quel di secolo, ma infiammato è come in peto. Con un pezzo all'italiana, dirò che quel di secolo, ma infiammato è come in peto, e la mia onda mi fa. Non vi piace, non va bene, vi proviamo alla francese, alla francese, alla francese. Non capacità l'inglese, non gli piace l'italiano.